giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Primo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas in Israele è costato la vita a oltre 1200 persone. Dopo la cerimonia di ieri nella sinagoga di Trieste, il rabbino Alexander Meloni e il presidente della comunità ebraica Salonicchio saranno a Roma per partecipare alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata dello Stato ebraico al ghetto. Donna ferita sulla strada a Maiano e giallo, ricoverata in gravi condizioni e operata. Non si esclude alcuna ipotesi. I carabinieri attendono di poterla ascoltare per poter ricostruire l'accaduto. Importante traguardo per l'aeroporto di Ronchi. Oggi si è festeggiato il milionesimo passeggero in transito per lo scalo, un numero raggiunto in grande anticipo rispetto ai tempi degli scorsi anni. Il contestato piano per la riqualificazione dell'area del Porto Vecchio attraverso il meccanismo del project financing affidato all'azienda bergamasca Costim al centro dei lavori del Consiglio Comunale di Trieste, convocato alle 14 e per il quale le opposizioni hanno presentato circa 200 emendamenti. Da alcuni giorni sono riprese a Trieste le verifiche di funzionamento del tram di Opicina e collaudi prevedono diversi test sui binari del percorso e sulle vetture in attesa della ripresa del servizio prevista entro l'anno. Oggi era in programma un vertice tra i tecnici di Trieste Trasporti e il Comune. Nella settimana del disagio mentale, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, sono diversi gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale di Pordenone. Il Centro Provinciale Istruzione Adulti è una scuola pubblica operante a Gorizia e Monfalcone dove si tengono corsi di alfabetizzazione e italiano per adulti, ma a fronte di un migliaio di posti a disposizione altrettanti sono rimasti in lista d'attesa, tra le cause anche il numero insufficiente di insegnanti. Migliorare la qualità di vita e di lavoro in Viale Marconi a Pordenone, gravato da traffico e inquinamento acustico. Il dibattito si accende tra residenti ed esercenti della zona. Oggi al Teatro Miela Ilaria Tuti presenta il suo libro Risplendo non brucio, di cui ci racconta contenuti e genesi. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beyerz e Daniele Lettig in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 7 ottobre. Oggi è il primo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas nei kibbutz di Israele, costato la vita a oltre 1200 ebrei. Da allora è tornata a incendiarsi la situazione in Medio Oriente con decine di migliaia di morti a Gaza e un conflitto che si è allargato fino al Libano e all'Iran con rigurgiti di antisemitismo sempre più presenti anche in Occidente. Oggi, dopo la cerimonia di ieri in sinagoga a Trieste, il rabbino Alexander Meloni e il presidente della comunità ebraica Salonicchio saranno a Roma per partecipare alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata di Israele al ghetto. Sentiamo allora il rabbino Meloni in questa intervista. Che cosa è stato, che cos'è e che cosa sarà il 7 ottobre? Cosa è stato? È stato il primo pogrom del XXI secolo. Che cos'è? È un dolore immenso per tutto il popolo ebraico, è un stupore. Cosa sarà? Sarà uno ennesimo episodio di cui noi ricorderemo quello che è successo, che dimostra che purtroppo per fare la pace bisogna essere in due e pur essendo un popolo che desidera la pace, non tutti vogliono farla. Oggi avete aperto le porte a tutti. Assolutamente, un messaggio per dire che la comunità ebraica e le comunità ebraiche d'Italia ed Europa non vogliono entrare nel meccanismo della chiusura. L'antisemitismo in genere porta le comunità ebraiche a chiudersi su se stesse e separarsi. Noi vogliamo dimostrare che rifiutiamo questa cosa e cerchiamo di rimanere aperto agli altri. Il vostro pensiero anche agli ostaggi? Il nostro pensiero è soprattutto agli ostaggi e quello mi preoccupa ancora di più perché con il tempo la questione degli ostaggi è andato sempre di più scemandosi ed è quello che è anomalo. Abbiamo in questi ostaggi un bambino, il bambino Kfir, che ha un anno, immaginiamo 365 giorni e 365 notte come ostaggio senza nessuna cura, senza nessuna attenzione particolare. Questo è molto preoccupante. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un quarto d'ora di silenzio come avevamo fatto l'anno scorso sul Molo Audace e questo è l'appello del Vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, per ricordare l'anniversario del 7 ottobre. Datevi 15 minuti di silenzio, date spazio alla vostra coscienza, continua l'appello del presule. Impegniamoci ovunque perché si osi immaginare, pensare, volere la mediazione alta della diplomazia della pace. E anche l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, ha accolto l'invito di Papa Francesco per vivere oggi una giornata di preghiere e digiuno per la pace nel mondo, proprio nel giorno del primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. Monsignor Lamba presiderà oggi un santo rosario alle 19.30 nel santuario della Beata Vergine delle Grazie, invitando a pregare anche nelle case, nei luoghi di cura e nelle comunità locali. La cronaca è giallo su quanto accaduto a una donna di nazionalità polacca ritrovata ferita sulla strada ieri sera a Maiano. Erano circa le 20.30 quando i carabinieri di Fagagna hanno ricevuto la segnalazione. La donna, di cui non sono state rese note le generalità, si trovava a terra in via Rino Snaidero gravemente ferita. Soccorsa e condotta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è stata immediatamente operata per un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre al trauma cranico, la donna ha riportato altre fratture nella parte superiore del corpo, cosa che fa pensare anche a cause diverse dall'investimento. I carabinieri non escludono quindi alcune ipotesi e attendono di poter interrogare la donna probabilmente nel pomeriggio oppure domani. Attenzione, c'è una bomba a scuola. Questo è il contenuto di una telefonata giunta in mattinata poco prima dell'inizio delle lezioni al centralino dell'Istituto Cecconi di Udine, il cui dirigente ha dato l'allarme facendo uscire tutti gli studenti dall'edificio. Sul posto sono intervenuti in via precauzionale due volanti della polizia per la verifica della situazione, mentre i ragazzi sono rimasti per qualche ora all'esterno fino al cessato allarme e al conseguente via libera per la ripresa regolare delle lezioni. Con un più 40% di passeggeri, il Trieste Airport di Ronchi è lo scalo italiano con la crescita più alta nel 2024 e oggi festeggia il milionesimo passeggero. Si tratta di una signora triestina diretta a Roma che ha vinto un volo per due persone per Dubai. Gli Emirati Arabi infatti si potranno raggiungere da Ronchi con uno scalo in mezzo. I palloncini sul desk, l'annuncio a microfono da parte della hostess, il volo delle 11.15 ITA Airways per Fiumicino ha a bordo il milionesimo passeggero del 2024, un record storico mai raggiunto prima dallo scalo. Si chiama Susanna Serri, una signora triestina che con sorpresa ha ricevuto le congratulazioni dello staff, ma anche un bel premio. Un biglietto di andata e ritorno per Dubai per due persone. L'aeroporto di Ronchi dei regionali è lo scalo italiano che più è cresciuto in termini di passeggeri, più 40% in un anno contro il più 11% registrato in Italia. L'amministratore delegato Marco Consalvo. È un traguardo, è una soglia psicologica, in questi anni c'era, l'abbiamo superata e adesso guardiamo soprattutto in avanti, siamo orientati e proiettati in avanti perché vogliamo che questa crescita sia solida e duratura. La signora viaggerà su Dubai perché ci sarà un nuovo collegamento, una nuova rotta? Non c'è il collegamento diretto, faremo, ITA venderà i biglietti da Trieste per Dubai con scalo a Fiumicino. Un bel risultato per il business e per piacere. Beh, Dubai è sicuramente una meta importante come hub di collegamento per l'est, per l'Asia, oltre che un punto, una città super tecnologica e moderna e quindi estra interessante. Noi in questo momento non riusciamo ad avere un collegamento diretto e quindi abbiamo lavorato con ITA per avere questo collegamento via Fiumicino. Ronchi dei Legionari, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.38 e 30 secondi il tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature delle 11. A Trieste 17 gradi, a Udine Pordenone 15,5, a Gorizia 14,5, a Tarvisio 13, a Tolmezzo 12,5, a Forni di Sopra 10,5, a Sappada 8,5, a Piancavallo 7 gradi. Sul Monte Lussari 4,5, sullo Zoncolan 3,5, a Grado 16,5, a Lignano 14,5. Le previsioni dell'ARPA per la nostra regione nelle prossime ore su pianura e costa: il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, sui monti nuvoloso coperto, sulla fascia a ridosso della pianura variabile sulle zone più interne, possibile aumento della nuvolosità dal pomeriggio. In serata sarà possibile qualche debole pioggia con venti deboli di brezza. Il contestato piano per la riqualificazione dell'area del Porto Vecchio attraverso il meccanismo del project financing affidato all'azienda bergamasca Costim è al centro dei lavori del Consiglio Comunale di Trieste, convocato per oggi alle 14. Sul punto le opposizioni hanno presentato circa 200 emendamenti. Il Consiglio Comunale di Trieste si appresta a discutere del futuro assetto della città e prendere decisioni che incideranno in modo determinante sull'urbanistica e il tessuto socio-economico di Trieste, perché la seduta di questo pomeriggio affronta il piano di project financing elaborato dalla bergamasca Costing per il riutilizzo dei 66 ettari di Porto Vecchio, un piano pubblico-privato fatto proprio dalla Giunta Comunale con delibera del 29 luglio che prevede i lavori di riqualificazione per 620 milioni di euro da eseguire in 3 lotti, 19 magazzini da ristrutturare e alienare, destinati a alberghi, residenze, terziario e scienza. Forti le perplessità delle opposizioni per i tempi stretti e la scarsa trasparenza della discussione di un argomento che sarà cruciale per le generazioni future di triestini. Tra i documenti della delibera di giunta, per esempio, manca il piano economico-finanziario del privato. Le opposizioni hanno presentato 190 emendamenti dalla destinazione d'uso al bilanciamento dei rischi tra pubblico e privato, ma nella discussione si inserisce una diffida a procedere con la discussione inviata venerdì al Consiglio Comunale a firma dell'avvocato Alberto Costoris di Gianfranco De Pinguente. Ritengono illegittima la procedura della delibera che non ha promosso un dibattito pubblico seguendo il codice degli appalti. Inoltre evidenziano la dubbia legittimità di un contratto di concessione alienazione che potrebbe produrre un danno erariale. Necessario, secondo i due firmatari, che il Consiglio Comunale chieda in forma cautelativa una valutazione della Corte dei Conti, un argomento che sarà dibattuto dal Consiglio Comunale, che dovrà anche valutare la richiesta della capogruppo dei 5 Stelle Richetti di revocare la seduta. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da alcuni giorni sono riprese a Trieste le verifiche di funzionamento del tram di Opicina. I collaudi prevedono diversi test sui binari del percorso e sulle vetture in attesa della ripresa del servizio, che è prevista entro l'anno. Oggi era in programma un vertice tra i tecnici di Trieste Trasporti e il Comune. La carrozza 406 aspetta. Per ripartire il tram di Opicina ha bisogno del via libera da parte dell'ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. E non sembra per niente facile. Oggi nuovo sopralluogo insieme ai tecnici incaricati dei lavori sulla storica linea tranviaria, inaugurata nel 1902. Le verifiche vengono fatte sul materiale rotabile, sulla revisione di 10 deviatoi lungo il percorso, in tutto 5 km e 200 metri. Presente anche il dirigente comunale, l'ingegner Giulio Bernetti. È un sopralluogo ultimo di verifica, viene battuta oggi tutta la linea per verificare tutti i punti di discontinuità, quelli che sapevamo già, quelli anche sugli tratti non toccati dagli ultimi lavori, proprio per mettere tutto a posto e dare quanto prima avvio al tram. Dopo l'ok sui lavori infrastrutturali, però, bisogna mettere mano alle vetture, in particolare al sistema frenante. Una ditta specializzata dovrebbe essere incaricata dei lavori. La conclusione prevista entro la fine del 2024, secondo quanto detto dal sindaco di Piazza qualche settimana fa, per consentire la ripresa delle attività della linea, chiusa dal 2016 dopo l'incidente che ha coinvolto 2 vetture. Noi stiamo correndo tutti per aprire entro quest'anno, poi ovviamente dipende un po' anche dai fornitori, ma ci stiamo muovendo su questa linea. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La questione della carenza di medici di base a Gorizia, dove 4.000 cittadini ne sono privi, sarà uno dei temi di discussione del Consiglio Comunale in programma questa sera, in cui verrà analizzata una mozione presentata dal consigliere Picco. La mozione era stata formulata lo scorso maggio dal Comitato di Gorizia del Coordinamento Salute FVG e richiede alla Giunta Comunale di adottare i provvedimenti di competenza del Comune per la salvaguardia del diritto alla salute. Oggi a Udine si tiene il secondo Caregiver Day del Friuli Venezia Giulia, una giornata istituita lo scorso anno per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sul valore sociale di chi dedica il proprio tempo alla cura degli altri. Appuntamento nell'auditorium della sede della Regione di Via Sabbadini con esperti, psicologi e docenti che si confrontano sul focus dell'edizione di quest'anno, ovvero il caregiving giovanile. Caregiver. Abbiamo iniziato a prendere dimestichezza con questo termine in tempo di pandemia. Un caregiver è chi si prende cura di un congiunto ammalato o disabile. Un esercito spesso invisibile di persone che sostiene famiglie e individui in difficoltà. Sono in genere donne, il 74%, di cui il 31% di età inferiore ai 45 anni. E di questi giovani, spesso minorenni, si è occupato oggi il Caregiver Day. L'evento, organizzato dalla Regione in collaborazione con l'associazione triestina Goffredo de Banfield, ha preso in analisi un fenomeno ancora poco conosciuto, che spesso causa pesanti ricadute sulla vita di questi giovani. Licia Boccaletti, della cooperativa sociale Anziani e non solo, è la prima in Italia ad occuparsi in modo mirato e specifico del supporto ai giovani caregiver. I giovani caregiver sono bambini, adolescenti, giovani adulti che si prendono cura di un membro della loro famiglia che pur nella loro giovane età svolgono delle attività importanti. Quanti sono? È difficile dirlo. Gli unici dati italiani che abbiamo ne stimano circa 400.000, ma noi riteniamo che possano essere molti di più. Non sono ancora molto visibili, pur essendo comunque tanti ed essendo un'attività che li impegna molto, vista la loro giovane età. Sono stati poi illustrati i dati di un progetto pilota dedicato alle scuole, con il coinvolgimento di 14 classi. Dalle risposte ai questionari risulta elevata la diffusione nel tessuto scolastico del fenomeno del caregiver giovanile, inteso come compito di cura quotidiano svolto dai giovani nei confronti di persone che vivono condizioni di fragilità. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella settimana del World Health Mental Day, che si celebrerà giovedì 10 ottobre e in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, sono diversi gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale di Pordenone. Ce l'illustra la direttrice Cristina Meneguzzi. In questa settimana, in ricorrenza appunto del 10 ottobre, quindi Giornata Mondiale della Salute Mentale, abbiamo voluto un po', no, ricordare anche Franco Basaglia nel centenario della sua nascita e quindi anche, insomma, il valore inestimabile della rivoluzione che lui ha promosso. Quindi abbiamo organizzato una serie di iniziative, c'è stato un laboratorio che ha visto la partecipazione di 10 pazienti che sono in carico a diversi centri di salute mentale del nostro dipartimento, che hanno preso alcune delle più famose frasi basaliane e le hanno messe, come dire, in veste grafica, quindi hanno fatto degli elaborati artistici. Domani pomeriggio sarà inaugurata la mostra alla loggia del municipio di Pordenone, dove queste appunto opere verranno appunto messe un po' in visione, a disposizione della cittadinanza. Oggi pomeriggio alle 16 nel territorio del Maniaghese sarà organizzato un aperitivo musicale dal titolo Cosa ti passa per la testa, presso la sede del centro Sghiri Beach, proprio per ricordare sempre i diritti civili delle persone che hanno un disagio psichico e che ovviamente, come dire, l'opera di Franco Basaglia restituito. Il 19 ottobre nel comune di Fiume Veneto ci sarà una marcia, più di 100 passi, una marcia non competitiva, quindi noi abbiamo pensato, come dire, delle iniziative molto inclusive sul territorio, che fossero proprio a disposizione della popolazione generale, proprio per ricordare che la salute mentale è qualcosa che sta nella responsabilità di tutti. Il CPA, Centro Provinciale Istruzione Adulti, è una scuola pubblica operante a Gorizia e Monfalcone, dove si tengono corsi di alfabetizzazione e di italiano per adulti, ma a fronte di un migliaio di posti a disposizione, altrettanti sono rimasti in lista d'attesa, tra le cause anche il ristretto numero di insegnanti. Sul sito internet del Centro Provinciale Istruzione Adulti, il CPA di Gorizia e Monfalcone, si legge che vi studiano 993 alunni. Quello che le cifre ufficiali non dicono è che l'anno scorso 977 persone sono rimaste fuori, in lista d'attesa. Nella sola Monfalcone, dove un terzo dei residenti di origine straniera, 609 frequentanti, 802 in attesa di frequentare. Non ci viene accordato il permesso di fare riprese all'interno della scuola, a parlare di totale inadeguatezza dell'organico anche ex dirigenti scolastici, non solo di quello docente, 15 insegnanti su 2 sedi. Adriano Zonta, ex segretario FLC CGL di Gorizia. Un collaboratore scolastico e mezzo, personale amministrativo che non c'è. Questo è un territorio particolare, un territorio dove le persone che vengono a lavorare qui hanno bisogno o necessità di essere integrate, e la prima cosa per l'integrazione è la conoscenza della lingua. Al CPA, scuola pubblica, si ottiene il diploma di terza media assieme ai corsi di alfabetizzazione. Viene accertato anche il livello linguistico necessario al rilascio del permesso di soggiorno. A fine 2022 a un lavoratore bengalese dell'indotto Fincantieri viene negata la protezione speciale, ritenuti non soddisfatti i requisiti di integrazione, decisione ribaltata dopo il ricorso. Giovanni Iacono, avvocato. gli ho fatto valere il fatto che lui aveva chiesto di iscriversi al centro, il CPA locale, anche quello di Gorizia, ma purtroppo la disponibilità era molto limitata. E un cane che si morde la coda, se la scuola pubblica non è in grado di garantire l'offerta, molti ragazzi sono costretti a rivolgersi al mercato privato. La dotazione di personale è determinata da un decreto ministeriale e non viene considerata la domanda insoddisfatta, ovvero chi resta fuori. L'ufficio scolastico provinciale rende noto che gli organici sono fissi, non correlati agli iscritti, ma sono stati assegnati 2 ulteriori docenti di ruolo per l'insegnamento di italiano agli stranieri negli ultimi 2 anni a Monfalcone. Monfalcone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Commercianti e residenti di Viale Marconi e Pordenone vogliono dare il loro contributo per migliorare la qualità di vita e di lavoro in questa zona della città. Tra i punti in discussione, traffico e inquinamento acustico, scarsità di parcheggi e la proposta di una barriera tra carreggiata e marciapiede. Il traffico è veramente diventato, è aumentato e il doppio senso è veramente critico. La velocità? Anche la velocità. Corrono. Che cos'è che vi disturba e che cosa... Il rumore più di tutto è il traffico che c'è, insomma. Commercianti e residenti di Viale Marconi a Pordenone vogliono dare il loro contributo per migliorare la qualità di vita e di lavoro in questa zona della città che si trova lungo il Ring, a pochi passi dal centro, più volte oggetto di riqualificazione. In un incontro previsto per il 10 ottobre alle 19 alla Caffetteria dell'Arte si parlerà di criticità e di proposte. Tra i punti in discussione il traffico e l'inquinamento acustico, la scarsità di parcheggi e la proposta di una barriera tra carreggiata e marciapiede. L'esercente Giulia De Marco. Assieme a tutti i miei colleghi negozianti, quello che proponiamo è chiaramente diminuire un po' il traffico, perché qua ci sono 3 corsie e corrono troppo. C'è un inquinamento acustico. La mia proposta è questa: mettere dei divisori tra delle fioriere, qualcosa, degli alberi, tra il marciapiede e la strada. Fare qualche festa anche qua, visto che siamo in centro. Non abbiamo grandi pretese. Questo è il minimo che noi chiediamo per il viale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia di calcio: l'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca ha raggiunto il ritiro della nazionale dopo essere stato inserito dal CT Spalletti nella lista dei convocati dell'Italia in vista dei prossimi impegni in Nations League al posto dell'infortunato Ken, tornando così a vestire la maglia azzurra 7 mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador. Sono iniziati già nello scorso weekend gli appuntamenti legati alla 56esima Barcolana, una manifestazione sempre più inclusiva, ha detto stamattina nel corso del nostro programma Buongiorno Regione Mitja Jaloc, il presidente della società velica di Barcola Grignano che organizza la Coppa d'Autunno. Countdown partito per la 56esima Barcolana, la regata dei record nel Golfo di Trieste che culminerà nella Coppa d'Autunno domenica 13 ottobre. Un'edizione large, quella del 2024, promette il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Jaloc. Edizione large vuol dire che coinvolge tutto il Friuli Venezia Giulia per 10 giorni e che abbraccia diversi sport, discipline. Vogliamo appunto con questo ampliamento della manifestazione geografico, ideale, simbolico, abbracciare tutto il Friuli Venezia Giulia. Siamo partiti sabato a Grado con i SUP, domenica a Lignano con il canottaggio, ieri c'è stata una barcolana nuota molto partecipata, i giovani con la Young, quindi una barcolana che si allarga a tutto il Friuli Venezia Giulia. Quanti partecipanti quest'anno? Siamo già a quasi 1400 iscritti. L'obiettivo è quello di arrivare intorno ai 1800 iscritti, di superare quindi gli iscritti dell'anno scorso, il 2023. Per Jaloc, 10 anni al timone della società velica di Barcola e Grignano, sarà la sua 11esima coppa da organizzatore. Devo dire che in questi anni la Barcolana è cresciuta molto, si è ampliata, significativo l'incremento dei volontari e delle persone che ci lavorano. Siamo partiti in poche decine, adesso sono più di 700 le volontari, i professionisti e le professioniste che lavorano per la Barcolana. E da regatante? Ricordo ancora da bambino quando speravo di poter partecipare alla Barcolana, e ieri l'ho raccontato ai ragazzi della Barcolana Young, un momento di passaggio, si diventa grandi da velisti quando si può partecipare alla Barcolana. Ne ho fatte una trentina di Barcolana, l'ultima nel 2013, ne ho vinte di categoria tante, la migliore, il miglior piazzamento in assoluto, un secondo posto. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pallavolo nella 2 maschile, esordio vincente per la Tinet, ritornata a Prata dopo un anno trascorso al Forum di Pordenone. Battuta per 3-0 a Reggio Emilia con parziali 25-14, 25-21, 25-19. Sconfitte invece le ragazze della CDA Talmassons in trasferta contro la Roma Volley per 3-7-1 dopo una prestazione comunque positiva. Come debutto in A1 non è andato male, anche se il Talmassons torna da Roma senza punti, ma la CDA ha creato più di un grattacapo a una formazione che, nella scorsa stagione, era andata ai playoff. I primi due set sono stati quasi sovrapponibili, eccetto per la cosa più importante, cioè il risultato. Punteggio sempre in bilico, soluzione affidata ai vantaggi. Nel primo parziale, la squadra di Barbieri ha avuto a disposizione 3 set point prima di chiudere sul 28-26. Nel secondo set, la CDA ha mantenuto un vantaggio minimo, 2 lunghezze fino al 19 pari. E poi le due squadre sono andate avanti fra set point e parità. Ma è stata Roma ad avere la meglio, 30-28, e questa è risultata la svolta della partita. Dal terzo set è cambiata la musica fin dall'inizio a favore della squadra di Cuccarini. 25-20, 25-19 il punteggio per la squadra di casa, nella quale milita la centrale friulana Michela Rucli. Risultato finale 3-1. L'allenatore della CDA si è rammaricato per il secondo set, nel quale le sue giocatrici hanno commesso qualche errore di troppo in battuta, quando non aveva senso rischiare oltre il lecito. I tabellini segnano 12 punti per la Sherban e 3 errori, mentre l'opposta Craiduba, molto utilizzata in attacco, ha messo a segno 16 punti, ma anche 11 errori. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito della rassegna Pequo di itinerari di letteratura e giornalismo, oggi a Trieste alle 18.30 al Teatro Miela la presentazione del nuovo romanzo di Ilaria Tuti, Risplendo, non brucio. Sarà il giornalista Enzo D'Antona a dialogare con l'autrice, che in questa intervista ci racconta i contenuti e la genesi del romanzo. È un romanzo storico che contiene anche 2 indagini, ambientato per metà nel cuore del Reich, nel castello di Kranzberg, nell'Assia più cupa, e per l'altra metà a Trieste, in una città stretta nel pugno di ferro del nazifascismo, ricoperta metaforicamente ma non solo dalla cenere che viene sparsa dalla risiera di San Sabba, l'unico campo di concentramento in Italia dotato di forni crematori. Come le è venuta l'idea per raccontare questa storia, di scrivere questo libro? Nonostante il successo della serie su Teresa Battaglia, ho sempre sentito il bisogno di fare anche altro, quindi di esplorare altre storie, altri territori. La storia appunto è una mia grande passione, è stato quindi un ritorno, devo dire, molto doloroso, perché il periodo storico indagato, quello della Seconda Guerra Mondiale, è uno scenario particolarmente cupo, ma proprio per questo è molto interessante da indagare a livello psicologico, perché rappresenta un terreno tra i più avversi e in cui mettere in campo dei personaggi e esplorare il peso delle scelte personali. I suoi romanzi, anche quelli più calati nella contemporaneità, come quelli appunto di Teresa Battaglia, hanno sempre una componente storica molto forte. Quanto lavoro di documentazione c'è? Partendo dal fatto che comunque dei romanzi sono romanzi e non saggi, e quindi mi permetto anche di avere una certa libertà nel racconto, l'80% dei fatti che inserisco sono reali, la documentazione è fondamentale proprio per trovare i fatti soprattutto locali attraverso cui arrivare alle lettrici e ai lettori, perché la grande storia la conosciamo a grandi linee tutti, però ci sembra sempre molto distante. Invece un romanzo permette di raccontare la storia del territorio locale attraverso le emozioni, no? Ed è quello che io ho cercato di fare anche in questo romanzo, cioè raccontare la guerra dal basso, dalle macerie. Paolo Rossi torna con il nuovo spettacolo Io e Pirandello, una vera e propria conferenza teatrale fondata sull'improvvisazione, che debutterà alle 20.30 di oggi al Kulturnidom di Gorizia. E alle 12.58 è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettigi e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini.